Niente. Dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Niente. La botticella che corre fragorosa nella notte per la vasta piazza deserta si ferma davanti al freddo chiarore di una vetrata opaca di farmacia all'angolo di via San Lorenzo. Un signore impellicciato si lancia sulla maniglia di quella vetrata per aprirla. Piega di qua, piega di là, che diavolo, non s'apre. Provi a suonare, suggerisce il vetturino. Dove? Come si suona? Guardi, c'è lì il pallino, tiri. Quel signore tira con furia rabbiosa. Bella assistenza notturna! E le parole, sotto il lume della lanterna rossa, vaporano nel gelo della notte, quasi andandosene in fumo. Si leva lamentoso dalla prossima stazione il fischio d'un treno in partenza. Il vetturino cava l'orologio. Si china verso uno dei fanaletti. Dice: vicino le tre. Alla fine il giovine di farmacia, tutto irto di sonno, col bavero della giacca tirato fin sopra gli orecchi, viene ad aprire. E subito il signore: c'è un medico? Ma quegli, avvertendo sulla faccia e sulle mani il gelo di fuori, dà indietro, alza le braccia, stringe le pugna e comincia a stropicciarsi gli occhi, sbadigliando. A quest'ora? Poi, per interrompere le proteste dell'avventore, il quale: ma sì, Dio mio, sì! Tutta quella furia, sì, con ragione. Chi dice di no? Ma dovrebbe pure compatire chi a quell'ora ha anche ragione d'aver sonno. Ecco, ecco, si toglie le mani dagli occhi e prima di tutto gli fa cenno d'aspettare. Poi di seguirlo dietro il banco, nel laboratorio della farmacia. Il vetturino, intanto, rimasto fuori, smonta da cassetta e vuole prendersi la soddisfazione di sbottonarsi i calzoni per far lì apertamente, al cospetto della vasta piazza deserta, tutta intersecata dai lucidi binari delle tranvie, quel che di giorno non è lecito senza i debiti ripari. Perché è pure un piacere, mentre qualcuno si dibatte in preda a qualche briga per cui deve chiedere agli altri soccorso e assistenza, attendere tranquillamente, così, alla soddisfazione di un piccolo bisogno naturale e veder che tutto rimane al suo posto. Là, quei lecci neri in fila che costeggiano la piazza, gli alti tubi di ghisa che sorreggono la trama dei fili tranviari, tutte quelle lune vane in cima ai lampioni, e qua gli uffici della dogana accanto alla stazione. Il laboratorio della farmacia, dal tetto basso, tutto scaffalato, è quasi al buio e appestato dal tanfo dei medicinali. Un sudicio lumino a olio, acceso davanti a un'immagine sacra sulla cornice dello scaffale di rimpetto all'entrata, pare non abbia voglia di far lume neanche a se stesso. La tavola in mezzo, ingombra di bocce, vasetti, bilance, mortai e imbuti, impedisce di vedere in prima se sul logoro divanuccio di cuoio, là sotto a quello scaffale di rimpetto all'entrata, sia rimasto a dormire il medico di guardia. «Eccolo, c'è!» dice il giovine di farmacia, indicando un pezzo d'omone che dorme penosamente, tutto aggruppato e raffagottato, con la faccia schiacciata contro la spalliera. «E lo chiami, per Dio!» una parola, capace di tirarmi un calcio, sa? Ma è medico. Medico, medico, il dottor Mangoni. E tira calci. Capirà svegliarlo a quest'ora? Lo chiamo io. E il signore, risolutamente, si china sul divanuccio e scuote il dormente. Dottore, dottore! Il dottor Mangoni muggisce dentro la barbaccia arruffata che gli invade quasi fin sotto gli occhi le guance. Poi stringe le pugna sul petto e alza i gomiti per stirarsi. Infine si pone a sedere, curvo, con gli occhi ancora chiusi sotto le sopracciglia spioventi. Uno dei calzoni gli è rimasto tirato sul grosso polpaccio della gamba e scopre le mutande di tela legate all'antica con una cordellina sulla rozza calza nera di cotone. «Ecco, dottore, subito, la prego», dice impaziente il signore. «Un caso d'asfissia». «Col carbone?» domanda il dottore volgendosi ma senza aprire gli occhi. Alza una mano a un gesto melodrammatico e provandosi a tirar fuori la voce dalla gola ancora addormentata accenna l'aria della Gioconda. suicidio in questi fieri momenti? Quel signore fa un atto di stupore e di indignazione, ma il dottor Mangoni subito arrovescia indietro il capo e, incignando ad aprire un occhio solo, «Scusi», dice, «è un suo parente?» «No, signore, ma la prego, faccia presto, le spiegherò strada facendo. Ho qui la vettura, se ha da prendere qualche cosa». «Sì, dammi, dammi», comincia a dire il dottor Mangoni, tentando d'alzarsi, rivolto al giovine di farmacia. Penso io, signor dottore», risponde quello, girando la chiavetta della luce elettrica e dandosi attorno tutto a un tratto con un'allegra fretta che impressiona l'avventore notturno. Il dottor Mangoni storce il capo, come un bue che si disponga a cozzare, per difendersi gli occhi dalla subita luce. «Sì, bravo figliuolo», dice, «ma mi hai accecato. Oh, è il mio elmo? Dov'è?» «L'elmo è il cappello. Lo ha, sì. Per averlo, lo ha. Positivo. Ricorda di averlo posato, prima di addormentarsi, sullo sgabello accanto al divanuccio. Dove è andato a finire?» «Si mette a cercarlo. Ci si mette anche l'avventore. Poi anche il vetturino, entrato a riconfortarsi al caldo della farmacia. E intanto il commesso farmacista ha tutto il tempo di preparare un bel paccone di rimedi urgenti. La siringa per le iniezioni, dottore, ce l'ha?» «Io», si volta a rispondergli il dottor Mangoni con una maraviglia che provoca in quello uno scoppio di risa. «Bene, bene. Dunque, si dice, carte senapate. 8 basteranno? Caffeina, stricnina, una Pravaz. E l'ossigeno, dottore? Ci vorrà pure un sacco di ossigeno, mi figuro». «Il cappello ci vuole, il cappello prima di tutto», grida tra gli sbuffi il dottor Mangoni. E spiega che tra l'altro c'è affezionato lui a quel cappello, perché è un cappello storico, comperato circa 11 anni addietro, in occasione dei solenni funerali di Suor Maria dell'Udienza, superiora del ricovero notturno al vicolo del Falco, in Trastevere, dove si reca spesso a mangiare ottime ciotole di minestra economica e a dormire quando non è di guardia nelle farmacie. Finalmente il cappello è trovato, non lì nel laboratorio, ma di là, sotto il banco della farmacia. Ci ha giocato il gattino. L'avventore freme d'impazienza, ma un'altra lunga discussione ha luogo, perché il dottor Mangoni, con la tuba tutta ammaccata tra le mani, vuole dimostrare che il gattino, sì, senza dubbio ci ha giocato, ma che anche lui, il giovine di farmacia, le ha dovuto dare col piede per giunta una buona acciaccata sotto il banco. Basta! Un gran pugno allungato dentro la tuba che per miracolo non la sfonda e il dottor Mangoni se la butta in capo sulle 23. «Ai suoi ordini, pregiatissimo signore!» «Un povero giovine!» prende a dir subito il signore rimontando sulla botticella e stendendo la coperta sulle gambe del dottore e sulle proprie. «Ah, bravo, grazie!» «Un povero giovine che m'era stato tanto raccomandato da un mio fratello perché gli trovassi un collocamento. E già, capisce? Come se fosse la cosa più facile del mondo. Toto fatto, la solita storia. Pare che stiano all'altro mondo, quelli della provincia. Credono che basti venire a Roma per trovare un impiego. Toto fatto. Anche mio fratello, sì signore, m'ha fatto questo bel regalo. Uno dei soliti spostati, sa? Figlio di un fattore di campagna, morto da 2 anni al servizio di questo mio fratello. Se ne viene a Roma a far che? Niente, il giornalista, dice, mi presenta i titoli, la licenza liceale e uno zibaldone di versi. Dice, lei mi deve trovar posto in qualche giornale. Io, roba da matti, mi metto subito in giro per fargli ottenere il rimpatrio dalla questura. E intanto potevo lasciarlo in mezzo alla strada, di notte. Quasi nudo era, morto di freddo, con un abituccio di tela che gli sventolava addosso. E 2 o 3 lire in tasca, non più di tanto. Gli do alloggio in una mia casetta qua a San Lorenzo, affittata a certa gente. Lasciamo andare. Gentuccia che subaffitta 2 camerette mobiliate. Non mi pagano la pigione da 4 mesi. Me ne approfitto, lo ficco lì a dormire. E va bene, passano 5 giorni. Non c'è verso ad ottenere il foglio di rimpatrio dalla questura. La meticolosità di questi impiegati, come gli uccelli, sa? Cacano dappertutto, scusi. Per rilasciare quel foglio debbono far prima non so che pratiche là, al paese. Poi qua, alla questura. Basta, questa sera ero a teatro, al nazionale. Viene tutto spaventato il figlio della mia inquilina a chiamarmi a mezzanotte e un quarto, perché quel disgraziato s'era chiuso in camera, dice, con un braciere acceso. Dalle 7 di sera, capisce? A questo punto il signore si china un poco a guardare nel fondo della vettura, il dottore che, durante il racconto, non ha più dato segno di vita. Temendo che si sia riaddormentato, ripete più forte. Dalle 7 di sera! Come trotta bene questo cavallino? Gli dice allora il dottore Mangoni, sdraiato voluttuosamente nella vettura. Quel signore resta, come se al buio abbia ricevuto un pugno sul naso. Ma scusi, dottore, ha sentito? Sì, signore, dalle 7 di sera, dalle 7 a mezzanotte, 5 ore. Precise. Respira però, sa, appena appena, è tutto rattrappito e che bellezza. Saranno sì, aspetti, 3, no, che dico 3? 5 anni saranno almeno che non vado in carrozza. Come ci si va bene? Ma scusi, io le sto parlando. Sì, signore, ma abbia pazienza, che vuole che mi importi la storia di questo disgraziato? Per dirle che sono 5 ore e va bene, adesso vedremo. Crede lei che gli stia rendendo un bel servizio? Come? Ma sì, scusi, un ferimento in rissa, una tegola sul capo, una disgrazia qualsiasi. Prestare aiuto, chiamare il medico, lo capisco. Ma un povero uomo, scusi, che zitto zitto si accuccia per morire. Come? Ripete, vi è più trasecolato quel signore. E il dottor Mangoni, placidissimo. Abbia pazienza, il più l'aveva fatto quel poverino. Invece del pane s'era comperato il carbone. Mi figuro che avrà sprangato l'uscio, no? Otturato tutti i buchi, si sarà magari alloppiato prima. Erano passate 5 ore e lei va a disturbarlo sul più bello. Lei scherza, grida il signore. No, no, dico sul serio. Oh, per Dio, scatta quello. Ma sono stato disturbato io, mi sembra. Sono venuti a chiamarmi. Capisco, già, a teatro. Dovevo lasciarlo morire. E allora altri impicci, è vero? Come se fossero pochi quelli che m'ha dati. Queste cose non si fanno in casa d'altri, scusi. Ah, sì, sì, per questa parte sì, ha ragione. Riconosce con un sospiro il dottor Mangoni. Se ne poteva andare a morire fuori dai piedi, le dice. Ha ragione. Ma il letto tenta, sa? Tenta, tenta. Morire per terra, come un cane. Lo lasci dire a uno che non ne ha. Che cosa? Letto. Lei. Il dottor Mangoni tarda a rispondere. Poi lentamente, col tono di chi ripete una cosa già tant'altre volte detta. Dormo dove posso, mangio quando posso, vesto come posso. E subito aggiunge, ma non creda, oh, che ne sia afflitto. Tutt'altro, sono un grand'uomo, io, sa, ma dimissionario. Il signore si incuriosisce di quel bel tipo di medico in cui gli è venuto così per caso di imbattersi e ride domandando, dimissionario, come sarebbe a dire dimissionario? Che capì a tempo, caro signore, che non metteva conto di nulla. E che, anzi, quanto più ci si affanna a divenir grandi e più si diventa piccoli. Per forza, a moglie lei, scusi? Io, sì signore. Mi pare che abbia sospirato dicendo sì signore. Ma no, non ho sospirato affatto. E allora basta, se non ha sospirato, non ne parliamo più. E il dottor Mangoni torna a rannicchiarsi nel fondo della vettura, dando a vedere così che non gli pare più il caso di seguitare la conversazione. Il signore ci resta male. Ma come c'entra mia moglie, scusi? Il vetturino a questo punto si volta da cassetta e domanda. Insomma, dov'è? A momenti siamo a Campoverano. Già, esclama il signore. Volta, volta, la casa è passata da un pezzo. Peccato tornare indietro, dice il dottor Mangoni, quando si è quasi arrivati alla meta. Il vetturino volta, bestemmiando. Una scaletta buia che pare un antro dirupato, tetra, umida, fetida. Ai, maledizione! Dio, Dio, Dio! Che cos'è? Si è fatto male? Il piede, ai, ai! Ma non ci avrebbe un fiammifero, scusi? Mannaggia, cerco la scatola, non la trovo. Alla fine un barlume che viene da una porta aperta sul pianerottolo della terza branca. La sventura, quando entra in una casa, ha questo di particolare. Che lascia la porta aperta, così che ogni estraneo possa introdursi a curiosare. Il dottor Mangoni segue zoppicando il signore che attraversa una squallida saletta con un lumino bianco a petrolio per terra presso l'entrata. Poi, senza chieder permesso a nessuno, un corridoio buio con tre usci, due chiusi, l'altro in fondo aperto e debolmente illuminato. Nello spasimo di quella storta al piede, trovandosi col sacco dell'ossigeno in mano, gli viene la tentazione di scaraventarlo alle spalle di quel signore, ma lo posa per terra, si ferma, si appoggia con una mano al muro e con l'altra tirato sul piede se lo stringe forte alla noce, provandosi a muoverlo in qua e in là, col volto tutto strizzato. Intanto nella stanza in fondo al corridoio è scoppiata chissà perché una lite tra quel signore e gli inquilini. Il dottor Mangoni lascia il piede e fa per muoversi, volendo sapere che cosa è accaduto, quando si vede venire addosso, come una bufera, quel signore che grida «Sì, sì, da stupidi, da stupidi, da stupidi!» Fa appena a tempo a scansarlo. Si volta, lo vede inciampare nel sacco d'ossigeno. «Piano, piano, per carità!» Ma che piano! Quello allunga un calcio al sacco, se lo ritrova tra i piedi. È di nuovo per cadere e bestemmiando scappa via, mentre sulla soglia della stanza in fondo al corridoio appare un tozzo e goffo vecchio in pantofole e papalina, con una grossa sciarpa di lana verde al collo, da cui emerge un faccione tutto enfiato e paonazzo, illuminato dalla candela stearica sorretta in una mano. «Ma scusi, dico, o che era meglio allora che lo lasciavamo morire qua, aspettando il medico?» Il dottor Mangoni crede che si rivolga a lui e gli risponde «Eccomi qua, sono io!» Ma quello alza e protende la mano con la stearica, lo osserva e come imbalordito gli domanda «Lei? Chi? Non diceva il medico?» «Ma che medico, ma che medico!» insorge strillando nella camera di là una voce di donna. E si precipita nel corridoio la moglie di quel degno vecchio in pantofole e papalina, tutta sussultante con una nuvola di capelli grigi e ricci per aria, gli occhi affumicati, ammaccati e piangenti, la bocca tagliata di traverso, oscenamente dipinta, che le freme convulsa. Sollevando il capo da un lato per guardare, soggiunge imperiosa. «Se ne può andare, se ne può andare! Non c'è più bisogno di lei! L'abbiamo fatto trasportare al policlinico perché moriva!» E cozzando in un braccio il marito violentemente, «Fallo andar via!» Ma il marito dà uno strillo e un balzo perché, così cozzato nel braccio, ha avuto sulle dita la sgocciolatura calda della candela. «E piano, santo Dio!» Il dottor Mangoni protesta, ma senza troppo sdegno, che non è un ladro né un assassino da essere mandato via a quel modo. Che se è venuto è perché sono andati a chiamarlo in farmacia, che per ora ci ha guadagnato soltanto una storta al piede, per cui chiede che lo lascino sedere almeno per un momento. «Ma si figuri, qua, venga, s'accomodi, signor dottore», s'affretta a dirgli il vecchio, conducendolo nella stanza in fondo al corridoio. Mentre la moglie, sempre col capo sollevato da un lato per guardare come una gallina stizzita, lo spia impressionata da tutta quella feroce barba fin sotto gli occhi. «Bada, oh, se per aver fatto il bene», dice ora, ammansata, a mo' di scusa, «ci si deve anche prendere i rimproveri». «Già, i rimproveri», soggiunge il vecchio, cacciando la candela accesa nel bocciolo della bugia sul tavolino da notte accanto al lettino vuoto, disfatto, i cui guanciali servono ancora l'impronta della testa del giovinetto suicida. Quietamente si toglie poi dalle dita le gocce rapprese e seguita. «Perché dice che no, signori, non si doveva portare all'ospedale, non si doveva?» «Tutto annerito era», grida scattando la moglie. «Ah, quel visino, pareva succhiato! E che occhi! E quelle labbra nere che scoprivano qua, qua i denti, appena appena, senza più fiato!» E si copre il volto con le mani. «Si doveva lasciarlo morire senza aiuto?» ridomanda placido il vecchio. «Ma sa perché si è arrabbiato? Perché sospetta, dice che quel povero ragazzo sia un figlio bastardo di suo fratello». «E ce l'aveva buttato qua», riprende la moglie balzando in piedi di nuovo, non si sa se per rabbia o per commozione. «Qua, per far nascere in casa mia questa tragedia, che non finirà per ora perché la mia figliuola, la maggiore, se n'è innamorata, capisce? Come una pazza, vedendolo morire. Ah, che spettacolo! Se l'è caricato in collo. Io non so come ha fatto, se l'è portato via con l'aiuto del fratello, giù per le scale, sperando di trovare una carrozza per strada. Forse l'hanno trovata. E mi guardi là quell'altra figliuola come piange». il dottor Mangoni, entrando, ha già intravveduto, nell'attigua saletta da pranzo, una figliolona bionda scarmigliata intenta a leggere, coi gomiti sulla tavola e la testa tra le mani. Legge e piange, sì, ma col corpetto sbottonato e le rosee esuberanti rotondità del seno quasi tutte scoperte sotto il lume giallo della lampada a sospensione. Il vecchio padre, a cui il dottor Mangoni ora si volta come intronato, fa con le mani gesti di grande ammirazione. Sul seno della figliuola? No, su ciò che la figliuola sta leggendo di là fra tante lacrime. Le poesie del giovinetto. Un poeta, esclama, un poeta che se lei sentisse cose, me ne intendo perché professore di belle lettere a riposo, cose grandi, e si reca di là per prendere alcune di quelle poesie, ma la figliuola con rabbia se le difende, per paura che la sorella maggiore, ritornando col fratello dall'ospedale, non gliele lascerà più leggere, perché vorrà tenersele per sé gelosamente, come un tesoro di cui lei sola deve essere l'erede. «Almeno qualcuna di queste che hai già lette», insiste timidamente il padre. Ma quella, curva con tutto il seno sulle carte, pesta un piede e grida «No!». Poi le raccoglie dalla tavola, se le ripreme con le mani sul seno scoperto e se le porta via in un'altra stanza, di là. Il dottor Mangoni si volta allora a guardar di nuovo quella tristezza di lettino vuoto che rende vana la sua visita. Poi guarda la finestra che, nonostante il gelo della notte, è rimasta aperta in quella lugubre stanza per farne svaporare il puzzo del carbone. La luna rischiara il vano di quella finestra. Nella notte alta, la luna. Il dottor Mangoni se la immagina, come tante volte, errando per vie remote, l'ha veduta quando gli uomini dormono e non la vedono più, inabissata e come smarrita nella sommità dei cieli. Lo squallore di quella stanza, di tutta quella casa, che è una delle tante case degli uomini dove ballonchiano tentatrici a perpetuare l'inconcludente miseria della vita due mammelle di donna come quelli che egli ha orora intravedute sotto il lume della lampada a sospensione nella stanza di là, gli infonde un così frigido scoraggiamento insieme a una così acre irritazione che non gli è più possibile rimanere seduto. Si alza sbuffando per andarsene. Infine, via, è uno dei tanti casi che gli sogliono capitare, stando di guardia nelle farmacie notturne. Forse un po' più triste degli altri, a pensare che probabilmente, chissà, era un poeta davvero quel povero ragazzo. Ma in questo caso meglio così, che sia morto. «Senta», dice al vecchio che si è alzato anche lui per riprendere in mano la candela, «quel signore che li ha rimproverati e che è venuto a scomodarmi in farmacia deve essere veramente un imbecille». Aspetti, mi lasci dire, non già perché li ha rimproverati, ma perché gli ho domandato se aveva moglie e mi ha risposto di sì. Ma senza sospirare, ha capito? Il vecchio lo guarda a bocca aperta, evidentemente non capisce. Capisce la moglie che salta su a domandargli. Perché chi dice di aver moglie secondo lei dovrebbe sospirare? E il dottor Mangoni pronto. Come mi immagino che sospira lei, cara signora, se qualcuno le domanda se ha marito? E glielo addita, poi riprende. Scusi, a quel giovinetto, se non si fosse ucciso, lei avrebbe dato in moglie la sua figliuola? Quella lo guarda un pezzo di traverso e poi, come a sfida, gli risponde. E perché no? E se lo sarebbero preso qua, con loro, in questa casa? Torna a domandare il dottor Mangoni. E quella di nuovo. E perché no? E lei, domanda ancora il dottor Mangoni rivolto al vecchio marito, lei che se ne intende, professore di belle lettere a riposo, gli avrebbe anche consigliato di stampare quelle sue poesie? Per non essere da meno della moglie, il vecchio risponde anche lui, e perché no? E allora, conclude il dottor Mangoni, me ne dispiace, ma debbo dir loro che sono perlomeno due volte più imbecilli di quel signore. E volta le spalle per andarsene. Si può sapere perché? Gli grida dietro la donna inviperita. Il dottor Mangoni si ferma e le risponde pacatamente. Abbia pazienza, mi ammetterà che quel povero ragazzo sognava forse la gloria se faceva poesie. Ora pensi un po' che cosa gli sarebbe diventata la gloria facendo stampare quelle sue poesie. Un povero, inutile volumetto di versi. E l'amore? L'amore che è la cosa più viva e più santa che ci sia dato provare sulla terra? Che cosa gli sarebbe diventato? l'amore una donna, anzi peggio una moglie, la sua figliuola. Oh, oh, minaccia quella venendogli quasi con le mani in faccia, badi come parla della mia figliuola. Non dico niente, s'affretta a protestare il dottor Mangoni, me l'immagino anzi bellissima e adorna di tutte le virtù, ma sempre una donna, cara signora mia, che dopo un po', santo Dio, lo sappiamo bene, con la miseria e i figliuoli, come si sarebbe ridotta. E il mondo, dica un po', il mondo dove io adesso, con questo piede che mi fa tanto male, mi vado a perdere, il mondo, veda lei, signora cara, che cosa gli sarebbe diventato? Una casa? Questa casa, capito? E facendo scattar le mani in curiosi gesti di nausea e di sdegno, se ne va, zoppicando e borbottando. Che libri, che donne, che casa, niente, niente, niente. Dimissionario, dimissionario, niente. Fine della novella, niente. Registrazione di Silvia De Simone, Roma.